stiamo parlando di un aumento di risultato rispetto al 2005, anche se questa volta l'UDC non era in alleanza con noi. Stiamo parlando di un raddoppio, forse più che un raddoppio, di vantaggio nostro nei confronti del centro-sinistra, e questo nonostante abbiano cercato di danneggiarci in tutti i modi, perché non dimentichiamo che per una settimana una sentenza sbagliata, proditoria della Corte d'Appello, aveva raccontato agli elettori che non saremmo stati presenti nella scheda o addirittura che i nostri dirigenti erano incapaci di raccogliere delle firme. Questo è un risultato importantissimo dal nostro punto di vista, tanto più perché è conquistato in condizioni molto difficili, in presenza di un attacco contro di noi molto forte.